Cari fratelli e sorelle, oggi siamo arrivati al termine del nostro percorso tra i testimoni del cristianesimo nascente che gli scritti neotestamentari menzionano. E usiamo questo termine ultimo di questo primo percorso per dedicare la nostra attenzione alle molte figure femminili che hanno svolto un effettivo e prezioso ruolo nella diffusione del Vangelo. La loro testimonianza non può essere dimenticata conformemente a quanto Gesù stesso ebbe a dire della donna che gli unse il capo poco prima della passione. In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che costei ha fatto in memoria di lei. Il Signore vuole che questi testimoni del Vangelo, queste figure che hanno aiutato perché cresca la fede in Lui, siano conosciute e la loro memoria sia viva nella Chiesa. Possiamo storicamente distinguere il ruolo delle donne nel cristianesimo primitivo durante la vita terrestre di Gesù e durante le vicende della prima generazione cristiana. Gesù certamente, lo sappiamo, scelse tra i suoi discepoli 12 uomini per padri, come padri del nuovo Israele. Li scelse, come dice San Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo fatto è evidente, ma benché i 12 colonne della Chiesa, padre del nuovo popolo di Dio, sono scelte anche nel numero dei discepoli molte donne. E solo molto brevemente posso accennare a quelle che si trovano sul cammino di Gesù stesso, cominciando con la profetessa Anna, fino alla Samaritana, alla donna sirofenicia, all'emorissa e alla peccatrice perdonata. Non mi riferisco neppure adesso alle protagoniste di alcune efficaci parabole, ad esempio alla massaia che fa il pane, alla donna che perde la dracma, alla vedova che importuna il giudice. Più significativo per il nostro scopo sono quelle donne che hanno svolto un ruolo attivo nel quadro della missione di Gesù. In primo luogo il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria, che con la sua fede, la sua opera materna, collaborò in modo unico alla nostra redenzione, tanto che Elisabetta poté proclamarla benedetta fra le donne, aggiungendo beata colei che ha creduto. Divenuta discepola del Figlio, Maria manifestò a Cana la totale fiducia in Lui e lo seguì fin sotto la croce, dove ricevette da Lui una missione materna per tutti i Suoi discepoli, per tutti i tempi, rappresentati i discepoli del futuro da Giovanni. Ci sono poi varie donne che a diverso titolo gravitarono attorno alla figura di Gesù con funzioni di responsabilità. Ne sono esempio eloquente le donne che seguivano Gesù per assisterlo con le loro sostanze e di cui Luca ci tramanda alcuni nomi: Maria di Magdala, Giovanna, Susanna, e parla inoltre di molte altre. Poi i Vangeli ci informano che le donne, a differenza dei 12, non abbandonarono Gesù nell'ora della passione. Tra di esse spicca in particolare la Maddalena, che non solo presenziò la passione, ma fu anche la prima testimone e annunciatrice del risorto. Proprio a Maria di Magdala, San Tommaso di Aquino riserva la singolare qualifica di Apostola degli Apostoli, Apostolorum Apostola, dedicandole questo bel commento. Nel suo commento al Vangelo di Giovanni scrive San Tommaso: come una donna aveva annunciato al primo uomo parole di morte, così una donna per prima annunziò agli apostoli parole di vita. Anche nell'ambito della Chiesa primitiva la presenza femminile è tutt'altro che secondaria. Non insistiamo adesso sulle quattro figlie innominate del diacono Filippo, residente a Cesarea Marittima, e tutte, come ci dice San Luca, tutte dotate del dono della profezia, cioè della facoltà di intervenire pubblicamente sotto l'azione dello Spirito Santo. La brevità di questa notizia non permette indicazioni più precise. Piuttosto dobbiamo a San Paolo una più ampia documentazione sulla dignità e sul ruolo ecclesiale della donna. San Paolo parte dal principio fondamentale, lo abbiamo sentito adesso nella lettura presa dalla lettera ai Galati, principio fondamentale secondo cui per i battezzati non solo non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, ma anche né maschio né femmina. Il motivo è che tutti siamo uno solo in Cristo Gesù, cioè tutti accomunati nella stessa dignità di fondo, benché ciascuno con le sue funzioni specifiche. L'Apostolo ammette come una cosa normale che nella comunità cristiana la donna possa profetare, così nella prima ai Corinzi, capitolo 11, versetto 5. La donna possa profetare, cioè pronunciarsi apertamente sotto l'influsso dello Spirito Santo, purché, questa è la condizione, ciò sia per l'edificazione della comunità e fatto in modo dignitoso. Pertanto la successiva esortazione famosa, che le donne nelle assemblee tacciano, va piuttosto relativizzata. Il conseguente problema molto discusso tra la relazione della prima parola, le donne possono profetizzare nell'assemblea, e l'altra, che non possono parlare, il problema della relazione tra queste due indicazioni apparentemente contraddittorie, lasciamo agli esegeti, non è da discutere qui. Mercoledì scorso abbiamo già incontrato la figura di Prisca o Priscilla, sposa di Aquila, la quale in due case viene sorprendentemente menzionata prima del marito. L'una e l'altra comunque sono esplicitamente qualificati da Paolo come suoi synergoi, collaboratori. Alcuni altri rilievi non possiamo trascurare. Occorre prendere atto, ad esempio, che la breve lettera a Filemone in realtà da San Paolo è indirizzata anche a una donna di nome Affia, traduzione latina e siriache del testo greco aggiungono a questo nome Affia soror carissima, carissima sorella. Si deve inoltre dire che nella comunità di Colossi ella doveva, questa Affia, occupare un posto di rilievo. In ogni caso è l'unica donna menzionata da Paolo tra i destinatari di una sua lettera. Altrove l'Apostolo menziona una certa Febe, qualificata come diaconos della chiesa di Cencre, la cittadina portuale a est di Corinto. Benché il titolo in quel tempo non ha ancora avuto uno specifico valore ministeriale di tipo gerarchico, esso esprime un vero e proprio esercizio di responsabilità da parte di questa donna a favore di quella comunità cristiana. Paolo raccomanda di riceverla cordialmente e di assisterla in qualunque cosa abbia bisogno, e poi aggiunge: essa infatti ha protetto molti, anche me stesso. Nel medesimo contesto epistolare l'Apostolo, con tratti di delicatezza, ricorda altri nomi di donne, una certa Maria, poi Trifena, Trifosa e Perside Carissima, oltre a Giulia, delle quali scrive apertamente che hanno faticato per voi e hanno faticato nel Signore, sottolineando così il loro forte impegno ecclesiale. Nella chiesa di Filippi, poi, dovevano distinguersi due donne di nome Evodia e Sintiche. Il richiamo che Paolo fa alla concordia vicendevole lascia intendere che le due donne svolgevano una funzione importante all'interno di quella comunità. In buona sostanza, la storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne. Per questo ha scritto il mio venerato e caro predecessore Giovanni Paolo II una lettera apostolica Mulieris Dignitatem, dalla quale vorrei citare un passo, dove dice: la Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna. La Chiesa ringrazia per tutte le manifestazioni del genio femminile apparse nel corso della storia in mezzo a tutti i popoli e nazioni. Ringrazia per tutti i carismi che lo Spirito Santo elargisce alle donne nella storia del popolo di Dio, per tutte le vittorie che essa deve alla loro fede, speranza e carità. Ringrazia per tutti i frutti della santità femminile. Come vediamo, l'elogio riguarda le donne nel corso della storia della Chiesa ed è espresso a nome dell'intera comunità ecclesiale. Anche noi quindi ci uniamo a questo apprezzamento ringraziando il Signore perché Egli conduce la sua Chiesa generazione per generazione, avvalendosi indistintamente di uomini e di donne che sanno mettere a frutto la loro fede e il loro battesimo per il bene dell'intero corpo ecclesiale, a maggior gloria di Dio. Grazie.